notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Roma, Marino cita Allende: non mi sento un martire ma un lottatore sociale. Il sindaco indagato per gli scontrini e per la sua onlus. Scende la disoccupazione che arriva all'11,8% in settembre, ma calano gli occupati di 36.000 unità. PIL oltre le stime, dice Padoan, che aggiunge: il bonus assunzioni non sarà eterno. A Messina sta ritornando lentamente l'acqua dopo il ripristino parziale dell'acquedotto. Il ministro Pinotti annuncia: mandiamo l'esercito. Sta male, non riconosce nemmeno la madre. Twill, il cittadino marocchino arrestato e ora scagionato per la strage di Tunisi, verrà espulso in quanto clandestino e rischia comunque la pena di morte. Expo, meno uno alla fine. Domani la cerimonia conclusiva è il nostro speciale. Inizia la partita sul futuro delle aree dell'esposizione. Vanno al concerto degli U2 e loro li chiamano sul palco a suonare. Il racconto di Ivan e Andrea, due fratelli di Broni, provincia di Pavia. Ne sentiremo, uno dei due tra poco. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Sono ore, per usare un eufemismo, piuttosto intense a Roma, dove ieri il sindaco ha annunciato che non si dimetterà e nel frattempo si apprende che sarebbe indagato per due vicende, quella degli scontrini e quella di una sua onlus. In diretta Andrea Viali. Buongiorno Andrea. Sì, è così. Buongiorno Simone. La novità di stamattina, appunto, è che Ignazio Marino risulta indagato in queste due distinte vicende. Una è quella relativa alla onlus Image, per la quale l'ipotesi di reato sarebbe quella di truffa aggravata, e poi c'è la vicenda dei suoi scontrini, per la quale, a quanto si è appreso stamattina, già da mercoledì Marino è iscritto nel registro degli indagati per peculato. Lo stesso Marino stamattina ha confermato di essere indagato per il caso degli scontrini, un caso che, lo ricordiamo, lo aveva costretto a presentare le dimissioni ad ottobre, il 12 ottobre, dimissioni che però ieri il sindaco ha deciso di ritirare, andando di fatto allo scontro con il suo ormai ex partito, il PD. Ma sentiamo le sue parole. C'è stata una denuncia di Alleanza Nazionale e dei Fratelli d'Italia, del Movimento 5 Stelle, una denuncia sulla base della quale io mi sono recato come persona informata sui fatti e ho spiegato in procura. La notizia di essere indagato è un atto dovuto, perché serve per la magistratura per completare le indagini e decidere se c'è una colpa o non c'è una colpa. Ecco, così Marino, che oltre a ritirare le dimissioni ieri ha chiesto un confronto politico con la sua maggioranza, un confronto però nell'aula del Consiglio Comunale, una richiesta respinta però dal Partito Democratico, che, lo sappiamo, ha deciso di farlo decadere facendo dimettere tutti i suoi 19 consiglieri comunali più altri sei delle opposizioni. In tutto ne servono infatti 25, le firme necessarie sarebbero state già tutte raccolte, hanno fatto sapere poco fa fonti del PD, e a breve dovrebbero essere anche presentati. A quel punto Marino non sarà più sindaco di Roma. Simone. Grazie Andrea intanto per questo aggiornamento. Nel frattempo lo stesso sindaco Marino sta parlando all'auditorium e sta parlando anche delle sue vicende, dunque torneremo ad aggiornarci con te più avanti nella seconda parte della trasmissione, e poi torneremo a parlare di tutto questo con l'assessore o ex assessore, ancora non è chiaro, Alfonso Sabella, assessore alla legalità del Comune di Roma, alle 13:15, per sentire un po' che quadro emerge anche da quel lato. E di questo, comunque, della vicenda di Marino, che ci parla oggi nella sua analisi Daniele Biacchessi. L'ultima sfida al Partito Democratico, il suo partito, Ignazio Marino l'ha lanciata nelle ore in cui ha ritirato le sue dimissioni da sindaco, affrontando così l'aula del Campidoglio, la raffica di dimissioni dei consiglieri comunali di maggioranza e opposizione. Con ogni probabilità sarà l'ultimo atto di Marino, perché per lui i numeri non ci sono e la strada di un commissario tipo Franco Gabrielli, uno che possa traghettare Roma verso le elezioni anticipate, è ormai imminente. Chi glielo fa fare a Marino un suicidio così prevedibile? Nelle più recenti dichiarazioni Marino considera l'aula un luogo sacro per la democrazia. È un po' come dire ai suoi detrattori: se avete coraggio sfidatemi a volto scoperto, non nelle salette del Nazareno. Ma in gioco, caro Marino, non c'è la democrazia, soprattutto c'è il futuro di Roma, la capitale del nostro paese, che merita rispetto e una giunta più efficiente e lungimirante, qualcosa che vada ben oltre la normale gestione dell'ordinaria amministrazione. come si diceva, di tutte queste vicende torneremo a parlare. Nel frattempo abbiamo da segnalare questo nuovo arresto nell'ambito dell'inchiesta Mafia Capitale. Ai domiciliari è finita Clelia Logorelli, 50 anni, dirigente preposto al settore verde di Eur S.p.A., accusata appunto di corruzione. La misura disposta al GIP di Roma è stata eseguita questa mattina dai carabinieri del Rossa. Siamo all'economia con i dati sulla disoccupazione. Si registra un nuovo calo che riguarda anche i giovani, meno positivi almeno su mese i dati sugli occupati. Nuovo calo per il tasso di disoccupazione che a settembre si attesta all'11,8%, il livello più basso dal gennaio 2013. Si tratta, rileva l'Istat, del terzo calo consecutivo. Lo 0,1% di settembre e agosto segue lo 0,5% di luglio. Tradotto in cifre, tutto ciò significa nei 12 mesi 264.000 persone in meno in cerca di lavoro. La disoccupazione è infrenata anche fra i giovani. Qui il dato si attesta al 40,5%, in calo dello 0,2% da agosto. A fronte di questo miglioramento c'è però anche un calo degli occupati, 11.000 giovani in meno, dovuto all'aumento degli inattivi. In termini generali, rispetto a un anno fa, gli occupati risultano in aumento dello 0,9%, con 192.000 persone in più che hanno un lavoro. L'ultimo dato da evidenziare è un dato al femminile. Il calo della disoccupazione nell'ultimo mese è determinato prevalentemente dalle donne, osserva l'Istat. 32.000 disoccupate in meno a fronte di 3.000 uomini. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Anche di questi dati, oltre che della congiuntura in generale, ha parlato il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Intervento del ministro all'assemblea dell'ANCI in svolgimento a Torino. I risultati recenti in termini di crescita di prodotto interno lordo, ha detto allora Padoan, stanno andando oltre le previsioni. L'occupazione è buona, con contratti migliori. La ripresa, ha spiegato il ministro, è dovuta alla domanda interna delle famiglie e delle imprese grazie al ritorno della fiducia. Quindi un avvertimento da parte del ministro, anche se ha già anticipato in settimana il bonus assunzioni, verrà prorogato anche quest'anno, ma non potrà durare in eterno. Il riferimento del titolo del Tesoro e alla decontribuzione prevista per i nuovi contratti nelle ultime leggi di stabilità. Più in generale, poi, proprio sulla manovra economica, Padoan ha ricordato come sia importante che se ne discutano tutti gli aspetti, che si facciano obiezioni e osservazioni critiche. Non è utile al Paese che si scelga una misura come rappresentativa di tutta la manovra. Questo non aiuta. Deficit in discesa, tagli alla spesa che continueranno, privatizzazioni, gli altri temi. Queste ultime, in particolare, proseguiranno nel 2016 con Enav e Ferrovie. Quanto a Poste, ha detto Padoan, ha contribuito a far raggiungere l'obiettivo indicato nel DEF dello 0,4% del PIL, pari a circa 6,5 miliardi. È tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta. È stata un'altra giornata di morti nel Mediterraneo, nel mare greco e in quello spagnolo, naufragi e vittime anche tra i bambini. È stata una tragica notte nel Mediterraneo. Due imbarcazioni cariche di migranti partite dalla Turchia alla volta della Grecia sono infatti affondate nella notte, una nei pressi dell'isola di Kalymnos, l'altra davanti a Rodi in Grecia. Sono in tutto 22 le vittime, fra le quali ben 13 bambini, che si vanno ad aggiungere agli 11 bambini morti ieri in altri 4 naufragi, sempre davanti alle coste greche. Una vergogna per l'Europa, ha tuonato il premier greco Tsipras parlando in Parlamento poche ore prima sulla rotta del Mediterraneo occidentale. Un altro naufragio, un barcone partito questa volta dal Marocco, è colato a picco ieri sera davanti alle coste spagnole di Malaga. È di almeno 4 morti e 35 dispersi il bilancio delle vittime. Tutto questo mentre sale la tensione al confine fra Slovenia e Austria, dopo che quest'ultima ha promesso di ergere a breve una recinzione con il paese confinante. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ci sono aggiornamenti, tra l'altro, su un luogo che è stato un fronte di tensione, almeno per una giornata, in Italia. Questo è quello che è successo, che il prefetto del governo Renzi ha usato la violenza su donne, anziani, gente del quartiere che non voleva l'ennesimo centro d'accoglienza. Allora io adesso qua sto vedendo entrare il pullman, vorrei che il tuo giornalista salisse sul pullman e andasse a chiedere a questa gente se sono eritrei o siriani. Sono eritrei o siriani queste persone? Sono senegalesi? Grazie Simone. Ecco, mi ha dato anche uno spintone Simone Rizzo. Quello che sentite, siamo... quello che avete sentito è il racconto che vi abbiamo fatto il 17 luglio scorso, e siamo a Casale San Nicola, alla periferia di Roma, quando c'è stata una protesta contro il trasferimento di una serie di profughi in quella zona. Ebbene, la Digos di Roma questa mattina ha eseguito alcune misure cautelari a carico di esponenti di Casa Pound, ritenuti responsabili proprio degli scontri del 17 luglio. In quella giornata diversi esponenti dell'organizzazione con caschi e volti coperti organizzarono un blocco appunto contro il trasferimento dei profughi. Nei tafferugli rimasero feriti 14 agenti, mentre due manifestanti furono arrestati e il nostro Francesco Eremigis, come avete sentito, ricevette uno spintone. E c'è una bruttissima storia che ha a che fare con due bambini profughi uccisi che arriva dalla Germania. Ha confessato di aver ucciso un secondo bimbo, quello che ormai viene chiamato il mostro di Berlino, il 32enne arrestato per l'omicidio di Mohamed Yanusi, 4 anni, bosniaco. Anche in questo caso il bambino Elias, di 6 anni, era scomparso. I genitori avevano visto il piccolo per l'ultima volta lo scorso luglio nella loro abitazione a Potsdam, non lontano dalla capitale tedesca. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il corpo di Elias potrebbe essere nascosto in una baracca nei campi coltivati attorno a Berlino. Il bimbo bosniaco è invece stato rapito dal 32enne, per ora identificato come Silvio S., lo scorso 1 ottobre, mentre era in coda con la madre e i fratelli all'ufficio registrazione migranti Lagheso di Berlino. L'assassino è stato identificato dalla propria madre grazie ad un video diffuso dalla polizia tedesca, in cui si vede appunto un uomo tra i 35 e i 50 anni che stringe la mano a Mohamed e lo porta via insieme al suo peluche. Il bimbo è stato trovato ieri nel bagagliaio dell'auto del killer di Berlino. Federica Frola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia di cronaca: un velivolo è esploso in volo nelle campagne del Vercellese ed è precipitato tra Santhià e Alice Castello. Le vittime 2, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un velivolo sperimentale militare. Alcuni testimoni riferiscono di aver sentito un boato seguito dalla caduta di rottami. Ed è arrivata proprio in questo momento, guardate, ve lo leggo dalle agenzie, la conferma che si trattava appunto di un velivolo sperimentale. La notizia arriva da Finmeccanica Gusta Westland e conferma la perdita di un prototipo di AW609, appunto un convertiplano, e la tragica scomparsa di due piloti. L'azienda si dice vicina alle famiglie. Restiamo sulla cronaca e ci spostiamo a Messina per un punto sull'approvvigionamento idrico della città. Tra oggi e domani l'acqua dovrebbe tornare nelle case dei messinesi, rimasti senza per giorni a causa di una frana. Ad annunciarlo è stato questa mattina il sindaco Renato Accorinti. I tecnici hanno lavorato tutta la notte sulla condotta di fiume freddo, riparando il guasto, ha spiegato il primo cittadino. Inoltre il bypass tra l'acquedotto dell'Alcantara e quello di fiume freddo dovrebbe essere pronto entro oggi. Per questa sera, intanto, dopo la formale richiesta della prefettura alla società Marnavi di Napoli, è anche attesa in porto la nave cisterna di 5.000 tonnellate, con immissione diretta nelle condotte idriche, mentre il ministro Pinotti ha dato disposizioni alle forze armate di intervenire per contribuire alla soluzione dell'emergenza. Una settimana complicata per la città, che ha dovuto fare i conti anche con 3 giorni di mancata raccolta dei rifiuti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E più avanti, per farci vedere un quadro aggiornato della situazione, sentiremo l'assessore ai lavori pubblici del comune di Messina, Sergio De Cola. Sono ottimista sul fatto che si possa trovare una strada per andare avanti, ma è molto difficile. Le parole sono del segretario di Stato americano John Kerry al suo arrivo a Vienna prima dell'apertura del vertice sulla Siria. Ma la guerra in Siria, oltre al dramma dei migranti, nel corso della giornata sicuramente parleremo del vertice di Vienna, quando ci saranno aggiornamenti, porta anche quello della distruzione di un patrimonio archeologico straordinario, a cominciare da Palmira. In questi mesi gli ultimi archeologi rimasti in Siria a costo della loro vita stanno cercando di sottrarre opere alla distruzione al mercato nero voluto da ISIS. La Siria, protagonista della borsa mediterranea del turismo archeologico in corso a Pestum. La nostra inviata Raffaella Calandra ha intervistato Munir Bucenaki, direttore per l'UNESCO della zona araba. A Palmira, il direttore generale del patrimonio siriano, che si chiama Mamoun Abdul Karim, ha potuto far sfuggire dal Palmira, dal museo, piccoli oggetti, ha potuto salvare del 70-80% degli oggetti del Museo di Palmira. Come riescono a sottrarle? Il Museo dei Mosaici di Marat Noaman, che è sulla strada tra Aleppo e Damasco. I direttori del museo ha potuto mettere un po' di sabbia per fare la copertura dei mosaici. Cercano di sotterrarli e di nasconderli. Ma quello che l'unico modo che il direttore generale Mamoun Abdulkarim ha riuscito con i suoi colleghi è di portare gli oggetti a Damasco, le mette in sicurezza in posti segreti con mezzi privati, ma anche con elicotteri dell'esercito. La finanza è salita ormai al 15% di Telecom Italia, il finanziere francese Niel. Xavier Niel, fondatore della società francese Iliad, in due giorni scopre le carte e comunica di avere oltre il 15% di Telecom Italia, una quota potenziale perché realizzata tramite strumenti finanziari che potranno, per così dire, trasformarsi in azioni a partire dal prossimo anno. La notizia comunque fa scalpore se consideriamo che proprio da quest'anno, dopo l'uscita di Telefonica, primo azionista di Telecom è il gruppo Vivendi con il 20%. Da una parte quindi c'è Niel, uomo che si è fatto da solo genio di internet e delle TLC, dall'altra Vincent Bolloré, imprenditore finanziere di lungo corso, ben noto in Italia con la sua Vivendi. Molti escludono un accordo tra i due, ma la Consob, l'autorità che vigila sui mercati finanziari, indaga, mentre il governo per ora tace. È una partita per il controllo della società, non per il suo sviluppo, ci spiega il senatore Mucchetti. Il governo, nel rispetto delle dinamiche di mercato, dovrebbe prima di tutto acquisire informazioni di prima mano su che cosa sta succedendo, perché non dimentichiamo che la rete di telecomunicazione è un asset importantissimo per il paese, un'infrastruttura di primo livello. E intanto il titolo sale ancora e tocca i massimi dal 2008. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi riprendiamo parlando proprio di Messina. C'è un'ascoltatrice tra l'altro che ci scrive via SMS dicendo che ieri abbiamo avuto un tono aggressivo con il sindaco, una risposta però tra un attimo. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, iniziando da Roma con Marino che cita Allende, non mi sento un martire ma un lottatore sociale, il sindaco indagato per gli scontrini e per la sua onlus, un atto dovuto, dice lui. Scende la disoccupazione che arriva all'11,8% in settembre, PIL oltre le stime, dice Padoan. Messina sta tornando lentamente l'acqua dopo quasi una settimana. Il ministro Pinotti manda l'esercito. Sta male, non riconosce nemmeno la madre Twilly, il cittadino marocchino arrestato e ora scagionato per la strage di Tunisi. Verrà espulso e rischia la pena di morte. Tra un attimo sentiremo l'intervista all'avvocato. Expo meno uno alla fine, domani la cerimonia conclusiva e il nostro speciale, lo speciale di Radio 24. Alfonso Sabella, assessore alla legalità del Comune di Roma, bentornato ai nostri microfoni e buongiorno. Buongiorno, ex assessore. Ex assessore, perché anche lei è dimissionario, mi scusi. Perché io appena ho presentato stamattina al numero di protocollo 31268 le mie dimissioni. Non ritiene più opportuno andare avanti, cioè la situazione... No, semplicemente non lo ritengo utile. Perché è chiaro che essendo il mio un ruolo assolutamente tecnico, nel momento in cui non c'è più, e ne abbiamo preso atto chiaramente, ma già da 20 giorni fa, non c'è più una maggioranza politica, è inutile che io stia a fare qua il mio lavoro e preferisco tornare a casa a fare il magistrato. Faccio un esempio banale, ma ho il regolamento dei contratti che abbiamo approvato in giunta deve essere adottato dall'Assemblea Capitolina. Quanto sta danneggiando Roma tutta questa vicenda, Sabella? Beh, la vicenda sicuramente ha creato grandi danni a Roma, perché in ogni caso, al di là delle responsabilità dei singoli e delle scelte politiche su cui io non entro, anche perché sono meccanismi che io non conosco e non comprendo fino in fondo, però ha comunque interrotto, spero momentaneamente, un percorso di risanamento della macchina amministrativa capitolina e di ripristino della legalità in città che è non indispensabile di più. E quindi bisogna sbrigarsi in sostanza. Sì, io sono sono assolutamente certo che il governo, nella fase che ormai sembra inevitabile del commissariamento, continui in quest'opera importantissima di recupero della legalità, proprio per provare a dare a Roma quegli anticorpi che in questo momento in Italia credo che non abbia nessuno. No, non ce l'ha nessuno, dice lei, cioè non è che non ce l'ha solamente Roma, come dice Cantone. Gli anticorpi sulla corruzione in Italia non ce li ha nessuno. C'è anche perché Roma... La diagnosi per Roma è stata una diagnosi certamente tardiva, perché l'ha fatta mi permetta la battuta medica, il nuovo primario dell'ospedale della Procura della Repubblica di Roma. Cioè Pignatone. Esattamente. Il capo della Procura. Senta Sabella, a proposito delle indagini che riguardano il sindaco, quella sulla Onlus e quella sugli scontrini, oggi c'è l'assessore Esposito che dice ho dato la mia lealtà ad un bugiardo, perché Marino mi aveva detto che erano archiviate o in via di archiviazione tutte e due. Lei che dice? Beh, io non, chiaramente queste sono valutazioni che fa Stefano Esposito. Certamente diamo un po' il valore a questi atti, sono delle banalissime informazioni di garanzia, entrambi atti pressoché dovuti da quello che almeno si era appreso dalla stampa, e consentitemi di dire, non sono state ancora nemmeno validate da un giudice. È chiaro che per quanto riguarda la mia posizione sul piano etico, io l'avevo già rappresentata al sindaco, l'avevo detto pubblicamente qualche settimana fa, l'apertura di un'indagine nei confronti del sindaco per reati quali il falso in atto pubblico e il peculato, per me era incompatibile con la mia presenza in giunta. Insomma, sono assessore alla legalità nonché magistrato, al di là del fatto che comunque stiamo parlando di questioni veramente di pochissimi del valore. Certamente, di sì, però qua lo snodo Sabella è se Marino ve l'avesse detto a voi assessori oppure no, insomma, che era indagato oppure che queste cose erano in via di archiviazione, perché questo non è chiaro. Sinceramente su questo punto preferisco avvalermi della facoltà di non rispondere, se me lo consente. Glielo consento. Per delle questioni mie di lealtà personale e professionale ancora. La ringrazio, grazie ad Alfonso Sabella, che è un ex magistrato, a questo punto anzi non è un ex magistrato, tornerà a fare il magistrato, perché come avete sentito è un ex assessore alla giunta di Roma, ex assessore alla legalità. Saluto adesso Sergio De Cola, assessore ai lavori pubblici del comune di Messina. Buongiorno assessore, benvenuto. Buongiorno. La sua presenza tra l'altro mi dà l'occasione di rispondere all'ascoltatrice che dice che ieri con il sindaco abbiamo avuto un tono incredibilmente aggressivo e odioso. Non è stato questo, cara Alessandra, semplicemente il sindaco la stava tirando un po' per le lunghe. In questa trasmissione tendiamo ad avere tempi un po' più compatti e quello che avevo l'esigenza di capire dal sindaco è quando sarebbe stata ripristinata ripristinato l'approvvigionamento idrico a Messina. A quanto pare, assessore, abbiamo iniziato, cioè sta iniziando a tornare l'acqua, no? Sì, dunque faccio il punto della situazione rapidissimamente. Noi siamo riusciti questa mattina, come avevamo programmato già 24 ore fa, come avevamo comunicato anche al tavolo in prefettura, siamo riusciti a rimettere acqua nelle condutture dell'acquedotto del fiume Freddo. Stiamo seguendo tutte le operazioni tecniche, perché sono tutta una serie di pompe che spingono l'acqua, vanno attivate una per volta, siamo già alla seconda, forse anche alla terza, tutto procede normalmente. L'acqua sta arrivando adesso, proprio dovrebbe arrivare, aspettiamo conferma, nei serbatoi della città, e poi da lì ci sono tutta una serie di manovre da fare per spurgare i circuiti che sono pieni d'aria e quindi viene distribuita nelle abitazioni. Tempo di ripristino della normalità, assessore? Normalità, entro domani mattina tutta la città dovrebbe avere già un regime normale, probabilmente le prime zone della città, a seconda appunto dell'ubicazione dei serbatoi, andranno fornite questa sera. Un'altra domanda, ieri il sindaco ci ha raccontato, perché poi in realtà gli spazi gliel'abbiamo dati, sì, a prescindere da quel che dice l'ascoltatrice, il sindaco ci ha raccontato che è stato effettuato una sorta di bypass, cioè una derivazione dell'acquedotto che parte in un luogo e va a ricongiungersi all'acquedotto da un'altra parte per saltare la parte che è a rischio a causa della frana. E però questo non può essere, immagino, la soluzione definitiva, assessore. Allora un attimo di precisazione, che il sindaco giustamente ha notizie frammentarie. Io che sono qui sono ancora sul luogo dell'incidente a Calatabiano, era stata valutata anche questa ipotesi, dopodiché invece è stata valutata come più veloce, più immediata. infatti siamo riusciti a risparmiare una decina d'ore su quanto detto ieri in prefettura, l'ipotesi di riattivare la tubazione esistente, cosa che è stata fatta. Però in realtà noi abbiamo nelle ultime 24 ore insieme a Sicilia Acque fatto un'altra operazione, cioè stiamo facendo un bypass, stiamo andando in cantiere proprio adesso, tra l'acquedotto dell'Alcantara e l'acquedotto del Fiume Freddo, in modo tale che se, speriamo mai, tra un anno, tra mille anni, dovesse averci un altro incidente di questo tipo, noi potremmo con immediatezza attivare il bypass e prendere acqua da un altro acquedotto oltre che dal nostro. Quindi ok, quindi impedire che succeda una cosa di questo genere di nuovo. Insomma, è cioè... quello per cui dobbiamo lavorare assolutamente. Purtroppo è incredibile, sì, ma la città di Messina era fornita da una sola linea. Da una sola linea. All'85%, cioè abbiamo un'altra piccola sorgente, ma è poca cosa. È poca cosa. La ringrazio, sì. Grazie a Sergio De Cola, assessore ai lavori pubblici del comune di Messina, per questi chiarimenti. La vicenda della quale vi riferivamo nei titoli, la vicenda di Abdelmajid Touil, il cittadino marocchino arrestato su richiesta della Tunisia perché è accusato di aver preso parte alla strage del Bardo, è scarcerato mercoledì dopo 5 mesi di detenzione. La vicenda, scusate, nei giorni scorsi ve l'abbiamo raccontata, si è svolta oggi al CIE di Torino l'udienza che dovrà decidere se convalidare il trattenimento. Secondo l'avvocato Guido Savio, Touil sta male, tanto da non aver riconosciuto né il suo legale né sua madre. Dall'altra parte c'è un altro punto, il fatto che rischia di essere espulso, anzi probabilmente sarà espulso per la legge italiana perché è un clandestino, in Tunisia è ancora sotto accusa, arriverà in Marocco e rischia di essere estradato in Tunisia, dove rischia la pena di morte. Sentiamo proprio Guido Savio intervistato da Valentina Furlanetto. Touil sta sicuramente molto male, non è stato in grado di presenziare all'udienza perché in condizioni di confusione totale. Noi ci siamo opposti alla convalida del trattenimento sulla base del provvedimento della Corte d'Appello di Milano che ha negato l'estradizione di Touil in Tunisia sul presupposto che lì sarebbe imputato di reati per i quali rischia la pena di morte. Questo è vietato dalla normativa italiana e internazionale. Il fatto che venga mandato in Marocco non tutela affatto Touil, perché esiste una convenzione tra Marocco e Tunisia che consente l'estradizione dal Marocco alla Tunisia, e quindi la tutela che l'Italia gli offre sarebbe vanificata se costui fosse inviato in Tunisia. Il giudice di pace si è riservato, speriamo che sciolga la riserva positivamente quanto prima. Ecco, quali sono i prossimi passaggi anche in termini di tempo? In termini di tempo il giudice di pace deve decidere entro mezzogiorno di domani. Mancano poche ore alla chiusura dell'Expo e di questo parleremo tra poco, dopo la consueta pausa per la borsa. Vi faremo anche sentire qualche voce divertente, soprattutto di lavoratori di Expo che hanno qualche bel racconto dopo aver accolto, insomma, più di 20 milioni di persone. E poi c'è una bella storia, una storia divertente, una storia di due ragazzi, ve l'abbiamo data nei titoli all'inizio, che sono andati a un concerto degli U2 a Londra. Due ragazzi italiani hanno esposto un cartello con scritto "Possiamo suonare con voi", li hanno fatti salire sul palco e con le loro due chitarre hanno suonato insieme agli U2. Li abbiamo intervistato uno di loro, a tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli. Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, è indagato per gli scontrini e per una vicenda che riguarda la sua onlus, un atto dovuto, dice lui. L'assessore Sabella, lo avete sentito poco fa a Radio 24, dice: "Mi sono dimesso questa mattina". Scende la disoccupazione, che arriva all'11,8% in settembre. Il PIL è oltre le stime, riferisce il ministro Padoan. A Messina torna l'acqua, domani mattina il ripristino completo della normalità. Notizia di pochi istanti fa, alcune centinaia di portuali hanno bloccato le rampe di accesso allo svincolo autostradale di Gioia Tauro sulla Salerno-Reggio Calabria ed il gate del porto. La protesta è stata decisa al termine di una manifestazione per chiedere appunto il rilancio del porto di Gioia Tauro. La borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo, un breve aggiornamento su quello che succede a Roma, perché come si diceva il sindaco Marino ha parlato un altro po', abbiamo sentito poco fa anche l'assessore Sabella, ma insomma oggi è sicuramente la notizia di giornata. Andrea Viali, buongiorno di nuovo. Sì, buongiorno Simone, così ha parlato Ignazio Marino per il quale queste potrebbero essere le ultime ore da sindaco di Roma, perché stanno infatti cominciando ad arrivare le prime dimissioni da parte dei consiglieri comunali del Partito Democratico, ma anche da quelli di altre forze politiche, che porteranno poi alla sua decadenza. In tutto, lo ricordiamo, servono 25 consiglieri dimissionari e tutte le firme necessarie sarebbero state già raccolte, hanno fatto sapere fonti del PD. Oggi nel frattempo si è saputo che già da mercoledì Marino è iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di peculato per la vicenda dei suoi scontrini. A confermarlo è stato lui stesso: è un atto dovuto, io sono convinto di aver spiegato bene le mie ragioni e la mia trasparenza, ha ribadito poco fa il sindaco, che intervenendo ad un'iniziativa nell'auditorium ha anche ribadito di non aver mai usato soldi pubblici per fini privati, quanto invece alle dimissioni in massa volute proprio dal PD per farlo decadere. Ha detto: si vuole impedire con ogni mezzo un confronto in un luogo democratico, io mi chiedo perché. Sono state le sue parole, Simone. E grazie Andrea anche per questo aggiornamento. Meno uno sta per chiudere Expo, domani tra l'altro a tutto questo dedicheremo uno speciale che sarà condotto dalla nostra Anna Migliorati, che è in studio con noi, che ci racconta un po' qualche impressione, ci fai sentire qualche voce, Anna. Adesso potremmo lanciare un sondaggio, sfido a sapere cos'è. Il cielo è azzurro. È La forza del sorriso, Simone, la canzone che Andrea Bocelli ha dedicato a Expo 2015. Sei mesi fa attendevamo questa. In realtà se la ricordano i pochi, come spesso accade non è stata questa la colonna sonora invece di questi sei mesi. E invece però ci abbiamo scherzato su e parecchio. Io come un barbone vedo lasciù un padiglione. Rassegniamoci però, Expo si chiude, chi è riuscito a vedere il Giappone bene, gli altri, Simone, se ne facciano una ragione. E poi vorrei capire anche chi da lunedì si vergognerà di aver fatto 4 ore di coda, o forse avremo imparato, magari ci metteremo in coda anche per una bella mostra da domani, chi lo sa. Dicevi tu, domani comunque l'ultimo giorno di apertura, i tornelli si chiuderanno alle 17, alle 18 ci sarà la cerimonia di chiusura con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ve lo faremo sentire in diretta, saremo in onda Radio 24 dalle 18 alle 20 con uno speciale dedicato proprio alla chiusura di Expo. Sapremo a quel punto anche quanti sono stati gli ingressi, i famosi giri di tornello. Giuseppe Sala si è dato entro domani come obiettivo i 21 milioni di visitatori, dovremmo esserci. Aggiungiamo però che alla vigilia si era detto che ne servivano 24 milioni per il pareggio di bilancio, quindi vedremo se queste code saranno bastate. Che a Expo però i visitatori ci siano stati, viste le code, le abbiamo viste tutti, le abbiamo fatte in tanti ed è successo di tutto. I lavoratori Expo hanno anche creato un sito dove hanno raccontato gli episodi più gustosi, ve ne anticipiamo qualcuno. Arostau Ustel du Barbajan, che poi abbiamo scoperto essere padiglione dell'Azerbaigian, per passare al padiglione del Kiwi. Sull'albero della vita siamo arrivati a chiedere dall'albero della felicità al tronchetto della vita. Persone che insistono sullo stand Puglia, convinti che siano i trulli agli ingressi di Triunza e Fiorenza. Spesso e volentieri ci sono signore sulla settantina che ci spacciano per donne in gravidanza, oppure si scambiano le stampelle, si scambiano la siderotelle. Io... Ecco, è solo un assaggio, Simone, domani vi faremo ascoltare anche molto altro. Cosa lascerà Expo? Questa è la vera domanda. I padiglioni verranno smontati letteralmente, alcuni hanno già una destinazione, altri non li vedremo più. Resta però un'area attrezzata, raggiungibile e ufficialmente senza una destinazione, quindi tanti progetti ma in cerca di fondi. Fin qui si sono evitati toni duri e la corsa all'appalto con l'Expo in corso, ma da lunedì sicuramente la partita si farà più accesa. Aggiungiamo un'altra nota, ricordiamoci che sono state aperte anche inchieste giudiziarie di Expo sugli extra costi della piastra di Palazzo Italia, delle vie d'acqua, e c'è da giurarci che anche su questo torneremo. Sul fronte dell'esposizione universale, il testimone 2020 a Dubai. Grazie alla nostra Anna Migliorati, che appunto ritroveremo domani con lo speciale di Radio 24, una giornata ampiamente dedicata a questi temi. Beh, abbiamo sentito parecchia musica, sentiamone altra. Two guitars. two brothers. Have you two guitarists, Dallas Sue? Come on, those are the two. Do you have Angel of Harlem chords in you? Angel of Harlem, you can play? You can play? Come on, two brothers. Two of you. Ivan, 30 anni, fa il programmatore. Andrea, 20, studia ingegneria. Sono i due fratelli che qualche sera fa dal pubblico sono stati chiamati sul palco della O2 Arena di Londra per suonare insieme agli U2. Ivan Montafi ha raccontato la sua avventura al microfono di Marta Cagnola. Era già capitato che facessero salire qualcuno sul palco a suonare con loro e ho pensato di mettere l'idea di due fratelli chitarristi. Abbiamo fatto il cartello, eravamo in prima fila, cioè abbiamo scritto Two Guitars Players and Brothers. Can we play with you? E ci ha fatto salire tutte e due. In quell'istante in cui siete saliti sul palco, cosa hai provato? È difficile dirlo, quasi una tranquillità come magari di solito facciamo con la nostra band, no? Abbiamo magari 20, 30, 50, 100 persone, dipende dalle serate, ma non è cambiato nulla, davanti più di 20.000 è stato normalissimo. La cosa più, diciamo, emozionante è avere loro, i tuoi idoli a fianco e suonare con te. Quella che è stata un po' più emozionante di tutto. Avete fatto anche un album invece, sì. Adesso però dovete far arrivare il vostro album agli U2, questa è la prossima missione. Guarda, noi gliel'abbiamo già dato a Torino, abbiamo incontrato Di Edge e gliel'abbiamo dato proprio in mano loro. Questa volta volevamo darglielo anche a Bono, no, sul palco, però non c'è stato il modo, l'ho lasciato nel borsello giù dal palco, però fra un mese torno a Dublino a vederli e ci trovo. Il traffico, Mario Platero, ci ritroviamo alla fine per i saluti.